Ti piace quello che stai ascoltando? Allora aiutaci a crescere con una sponsorizzazione. Contatta il 375 661 2540. Dalla tua auto alla tua casa, al lavoro o in vacanza, siamo sempre con te, ovunque tu vada. MG Radio, tutto quello che hai sempre cercato. La radio alternativa esiste. MG Radio, The Alternative Radio. MG Time, anche a Cerignola, in provincia di Foggia, sono le ore 10.04 minuti. MG Radio. Present. Dynamite con Elke. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati qui su MG Radio con la trasmissione Dynamite K-Pop and More, il programma di musica K-Pop. Buongiorno a te, oggi, cara, oggi, sentivi che fischiavo? Sì, ho sentito, se ormai questa, scusate la mia voce, è sempre molto molto nasale, è colpa ovviamente della mia allergia che non vuole lasciarti, no, abbandona questo corpo. Sei affezionato a me, che ci vuoi fare? E praticamente ogni periodo dell'anno c'è sempre che mi dà noia. Beh, sì, quando qualcuno si affeziona a morte e diventa appiccicosa, non ci puoi fare niente. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi è lunedì. Vedo il mio bigliettino, eccolo qua, sì, sì. L'ho ritrovato. Ah, anche perché non ricordo mai a memoria il nostro numero di telefono, il numero della radio. 375-661-2540, questo è il nostro numero dove potete inviare i vostri vocali, messaggi, tutto quello che volete. Insomma, salutarci, dire come state, da dove ci state ascoltando, qual è il vostro idol preferito, il vostro gruppo, qualsiasi cosa, a noi fa piacere leggerla. Poi cosa abbiamo? Dobbiamo salutare la redazione a distanza, salutiamo Paki da Palma de Mallorca e Giovanna da Milano, sono le nostre due collaboratrici e insomma, dove insieme collaboriamo per far sì che questo programma sia perfetto. Vabbè, giusto, a volte non è perfetto perché ci sono io con la mia voce. Madonna, come mai io? Vabbè, scherziamoci su. E che dici? Vogliamo partire già col primo brano? Dove ci posso, sì, diciamo anche dove ci possono ascoltare e vederci, mgradio.it oppure mgradio.mediasud.tv. Aprite la pagina, ragazzi, c'è anche la visual, quindi per chi vorrebbe guardare la visual basta scorrere sotto e l'immagine del telefonino oppure dal PC, dalla TV, e l'immagine è già imposta nell'apertura, quindi è facile. mgradio.it, vai. Ok, e che cosa possiamo fare adesso? Mandare il primo brano. Anzi, no. Prima di mandare il primo brano c'è una cosa importante. Brava, dillo. Mercoledì ci sarà l'estrazione per quanto riguarda il nostro giveaway. Ah, sì? Mercoledì. Questo mercoledì, Questo mercoledì. Se qualcuno ancora non è andato a fare, insomma, quello che abbiamo detto, partecipare, ci sono delle regole per partecipare, ovvero mettere il like, taggare due amici, poi postarlo nelle proprie storie, taggandoci, insomma ci sono delle piccole cose da fare che poi sono semplici, non si paga, non si fa nulla, e la redazione poi passa, se avete fatto tutto correttamente, vi lascia un numerino e quindi questo numerino poi sarà inserito insieme a tutti gli altri numeri e poi verrà sorteggiato in diretta mercoledì pomeriggio. Dynamite ti dà l'opportunità di portarti a casa un super premio. Partecipare è semplice. Ascolta le dirette, segui le istruzioni e buona fortuna. Sintonizzati, partecipa e scopri se sei tu il vincitore. Non perdere questa occasione. Il prossimo premio potrebbe essere il tuo. Resta aggiornato, ascolta Dynamite e seguici sui nostri social. Dynamite, il programma che ti premia. E io direi di partire subito col primo brano. Vi ricordo che oggi c'è la rubrica Approfondiamo l'artista e sarà dedicato al secondo componente dei BTS, ovvero Jin. E però prima partiamo con loro, con tutto il gruppo al completo. BTS con Wishing on a Star. You can be a star, you can be a star. 忘れるな 先を 明るく 照らすから Like a star, hey, hey. Like a star. Wishing on a Star, loro sono i BTS, il nostro primo programma, il nostro primo brano per quanto riguarda oggi. Andiamo a leggere. Buon inizio settimana a tutti, saluto te, mia cara regina, il nostro capitano, le ragazze delle redazioni a distanza. Ciao Antonia Valente. Buongiorno. Nostra carissima Antonia Valente, poi abbiamo Buongiorno e buon inizio della settimana a tutti. Ho sentito il podcast che venerdì era il compleanno del direttore, anche se in ritardo, buon compleanno. Ah, scusate, non posso dimenticare di salutare mia cugina. Un abbraccio, Paola Pisani. Quindi salutiamo la nostra Paola Piellucci, so che oggi è impegnata, sì. Non potrà ascoltare, ascolterà sicuramente il podcast dopo. Niente, quindi io vi ricordo ancora una volta il nostro numero telefonico dove potete mandare i vostri messaggi: 375-661-2540, facilissimo, inseritelo nella vostra rubrica su MG Radio oppure Dynamite Cape Open More, giusto per ricordarvi. E ci sono news dal mondo degli idol. Jimin dei BTS ha raggiunto la certificazione Silver nel Regno Unito per la seconda volta come artista solista. La British Phonographic Industry ha annunciato che il suo singolo di debutto solista del 2023, Like Crazy, ha ricevuto la certificazione Silver, diventando la sua seconda canzone solista a raggiungere questo traguardo. Secondo i criteri della certificazione BPI, il singolo ottengono la certificazione Silver dopo aver venduto 200.000 unità, mentre gli album ottengono la certificazione Silver vendendo 60.000 unità. Jimin aveva precedentemente ottenuto la certificazione Silver nel Regno Unito con il suo singolo Who, quindi noi non possiamo fare altro che fare complimenti al nostro Jimin. Poi cosa abbiamo? Prima della prevista performance del Coachella, gli Enhypen appariranno nell'episodio del 10 aprile di Jimmy Kimmel Live, dove presenteranno il loro nuovo singolo in inglese Lose. Jimmy Kimmel Live va in onda il sabato alle ore 23:35. E noi abbiamo ancora un'altra news. Poi dobbiamo ascoltare un brano. E poi forse ci addentriamo nella rubrica Approfondiamo l'artista. E poi. Won Ho dei 17 ha iniziato il suo servizio militare obbligatorio il 3 aprile, riceverà una formazione militare di base e poi servirà come impiegato pubblico. E noi adesso ascoltiamo un brano di 17, Spell. Give it to you. 알고 싶어. Sono i 17 e abbiamo dato la notizia che One Horse sarà, e, insomma, andrà al militare, purtroppo tocca, andrà a servire la sua patria. Intanto noi ci addentriamo piano piano nella rubrica Approfondiamo l'artista, ma prima andiamo a salutare il nostro direttore Mauro e andiamo a salutare Mauretto DJ, e dove ci ha mandato, ci ha inviato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno. Direttore, oh mamma mia. Poi è connesso con noi. Guarda un po', mi ha mandato anche una foto. Oh, sì. Dove, al mare? Sì, no, non è al mare, ma c'è una foto mia. Ok, grazie. Intanto, caro direttore, oggi è lunedì e qui lunedì si parla di un artista o di un gruppo. Questa volta abbiamo deciso di parlare di Jin, di BTS. La settimana scorsa abbiamo parlato di RM, questa volta tocca al nostro Kim Seok-jin. Allora andiamo a scoprire. Kim Seok-jin, nome d'arte Jin, nasce il 4 dicembre 1992 a Gwacheon, Corea del Sud. Inizia come studente di recitazione alla Kongkun University prima di essere scoperto da un talent scout della Big Hit. Viene scelto, senza esperienza musicale, per la sua presenza scenica e il suo potenziale. Debutta con i BTS nel giugno 2013, diventando Worldwide Handsome, ma anche noto per la sua voce stabile, calda e anche melodica. Tra le sue doti spiccano la sua sensibilità, l'umorismo irresistibile e l'abilità di prendersi cura del gruppo. E il Young, fratello maggiore, sempre pronto con una battuta o un piatto cucinato con amore. Intanto andiamo a scoprire il primo brano che abbiamo qui in playlist, Awake, che, insomma, dobbiamo dirlo, è il mio preferito, quasi in assoluto il mio preferito. Io amo questo brano di Jin, amo la sua voce, amo veramente quello che riesce a trasmettere questo brano. È il primo brano da solista in un album dei BTS, Wings. Awake racconta l'insoddisfazione personale, la paura di non essere all'altezza e il desiderio profondo di migliorarsi. È una confessione sincera e toccante che mostra la vulnerabilità di Jin e il suo spirito combattivo. Jin scrisse la melodia insieme ai produttori e fu coinvolto direttamente nella scrittura del testo. È una delle prime volte in cui ha mostrato il suo lato più fragile. E noi andiamo ad ascoltare questa meraviglia che si chiama Awake. E lui è Jin. Oh no. 쉬고 난 내 걷고 있을 뿐이라. Awake, dalla splendida voce di Jane dei BTS. Straordinario, non so, è il mio preferito, il mio brano preferito di Jane. Quindi abbiamo detto che lui è stato notato da un agente e tra l'altro anche una formazione accademica, si è laureato in arte e recitazione all'Università di Konkun nel 2017. Ha successivamente poi proseguito gli studi alla Hangwon Civil University. E continuiamo, c'è un altro brano che tutti noi amiamo, è un drama, è praticamente The Lost Warang. Lui ha fatto questo brano che si chiama It's Definitely You insieme a V, un altro componente dei BTS, quindi per questo drama Warang del 2016. In questo brano c'è energia pura, sinergia perfetta tra queste due voci, Jin e V. Questo brano unisce armonie potenti con una melodia molto avvincente. Fu il primo progetto extra BTS per Jin, che dimostrò di sapersi muovere anche in contesti cinematografici. Curiosità, il brano è spesso suonato durante gli eventi tra i fan perché rappresenta la forza dell'amicizia. E noi andiamo ad ascoltare quest'altra meraviglia di V e Jin. Na na na. L'opportunità di portarti a casa un super premio. Partecipare è semplice. Ascolta le dirette, segui le istruzioni e buona fortuna. Sintonizzati, partecipa e scopri se sei tu il vincitore. Non perdere questa occasione. Il prossimo premio potrebbe essere il tuo. Resta aggiornato, ascolta Dynamite e seguici sui nostri social. Dynamite, il programma che ti premia. La radio alternativa esiste. MG Radio, The Alternative Radio. Dynamite, K-pop and more, solo qui su MG Radio. E abbiamo ascoltato V e Jin in questo splendido host, It's Definitely You, host del drama Warang. Quindi abbiamo detto che Jin è laureato in arte e recitazione e che ha studiato in una delle università più prestigiose della Corea del Sud e che prima del suo debutto lui voleva diventare un attore. È stato scoperto per caso, un talent scout della Big Hit l'ha notato mentre scendeva da un autobus. All'epoca lui non sapeva né cantare e né ballare, ma è stato scelto per il suo carisma e l'aspetto. E adesso andiamo, continuiamo con la sua musica, continuiamo con un altro brano molto amato. Si chiama Epiphany. Epiphany è una vera svolta emotiva e parla dell'amore per se stessi, della necessità di accettarsi per poter amare gli altri. È stato uno live, è stato uno dei momenti più iconici di Love Yourself Tour con Jin al pianoforte sotto luci etere. E il videoclip e la scenografia live sono pieni di simbolismi, specchi, riflessi e luce a rappresentare la consapevolezza interiore. Andiamo ad ascoltare Epiphany, sempre dalla splendida e meravigliosa voce di Jin. Should love. Epiphany, Legend e BTS. Oggi nella rubrica Approfondiamo l'artista stiamo approfondendo la sua discografia personale, individuale, e insomma Jin ha davvero una gran bella voce. Come abbiamo detto prima, lui ama cucinare e ha cucinato spesso per i suoi colleghi, amici e componenti dei BTS. E tra l'altro lui, come abbiamo detto, ha preparato piatti per il gruppo, ha anche aperto un ristorante insieme al fratello. Andiamo a fare un salto. Perché ama la cucina. E sì, andiamo a fare un salto. Magari. Tra l'altro abbiamo anche detto che lui si è soprannominato Worldwide Handsome. Jin si è definito così con ironia durante un'intervista, ma il nome è rimasto per via del suo aspetto e del suo umorismo. Tra l'altro lui è stato scelto, l'abbiamo già detto, proprio per la sua straordinaria bellezza. Andiamo con un altro brano, Moon. Con sonorità pop rock e una dichiarazione d'amore dell'idol ai suoi fan, Jin paragona se stessa alla luna che ruota intorno alla terra, ovvero gli ARMY. E ha detto che voleva che il brano fosse solare, anche se si chiama Moon, per far sorridere chi lo ascolta. E noi andiamo ad ascoltare Moon dalla voce di Jin. Che lui dedica ai suoi fan, all'amore per i suoi fan, dove lui si definisce luna e gli ARMY terra. Moon. E abbiamo anche parlato spesso anche del suo essere sensibile e premuroso, scherza anche tantissimo con tutti, è molto ironico ed ha, insomma, sappiamo anche il suo cuore gentile, anche perché poi parleremo dopo della sua grande sensibilità, della sua grande generosità e del suo modo di essere davvero molto molto umile questo ragazzo. Intanto andiamo ad ascoltare un altro brano molto amato anche questo, tra l'altro è stato pubblicato a sorpresa la sera del suo compleanno, un brano intimo, dolce ma anche malinconico. Jin racconta momenti di burnout e stress dopo il successo dei BTS, mostrando quanto anche chi sorride spesso possa sentirsi perso e anche solo. Ha chiesto supporto a RM e a Bang PD per completare la canzone. Jin ha dichiarato: scrivere questa canzone è stato come respirare dopo essere stato sott'acqua. E noi andiamo ad ascoltare Babies di Jin. Molto intimo, dolce, malinconico, come è stato descritto, e ha parlato, insomma, che scrivere questa canzone è stato come respirare dopo essere stato sott'acqua, quindi è abbastanza importante come brano. Abbiamo parlato del suo amore per la cucina, per, insomma, cucinare, ma anche mangiare, perché il nostro Jin ama molto mangiare. Ha lanciato la sua serie Hit Jin, si tratta di video dove mangia mentre parla con i fan, contribuendo a rendere popolare il fenomeno del mukbang. Ebbene sì, il nostro Jin, oltre che cucinare, ama anche molto molto mangiare. Andiamo con un altro brano, è un brano e anche, insomma, un altro regalo che fa ai fan. Questo brano è dolce e riflessivo, che parla del legame eterno con chi non c'è più. È uno dei suoi brani più emotivi, pur non essendo mai stato pubblicato ufficialmente. Tonight, tra l'altro, se non ero lui, questo brano l'ha dedicato anche alla morte del suo, insomma, animale domestico, che era un cagnolino. E quindi noi andiamo ad ascoltare Tonight di Jin. Amicina. Nel 볼 수 없을까 봐 두려워 한없이 투명한 그 눈빛도 너무 익숙해진 그 촉감도 나를 보며 웃었던 얼굴도 이제 너를 다시 볼 순 없을까 나의 하루 Tonight. Ci sono anche dei riconoscimenti. Nel 2018 ha ricevuto insieme ai BTS l'ordine al merito culturale per il contributo alla cultura coreana. Poi Jin è anche attivo in campo benefico con donazioni e organizzazioni per il benessere animale e UNICEF. C'è un brano davvero molto easy. È un successo virale, nato così, intanto per scherzo. Jin ha scritto questa canzone mentre pescava, con un ritmo giocoso e un video esilarante. Nonostante le sue proteste iniziali, è diventata una delle sue hit più amate. La challenger di Super Tune ha conquistato TikTok e Jin ha detto scherzando: non era la mia intenzione, ma ormai ballatela. E quindi noi non poteva mancare nella nostra playlist Super Tune di Jin. Balliamo tutti insieme a lui. Check. Super Tuna di Gene, questo brano nato così tanto per scherzare, perché sappiamo che lui ama anche la pesca. Quindi da brani come Abyss e Tonight, poi passa a Super Tuna ed è involontariamente diventato virale. Cosa abbiamo da dire su Gene? Che lui ha prestato servizio militare come core esemplare disciplina. È stato il primo dei BTS a partire per il servizio militare e ha ricevuto elogi per il suo comportamento impeccabile. Adesso passiamo ad ascoltare un'altra host, la host per il drama Jirisan. Si chiama Yours e vediamo cosa... atmosfera cinematografica, voce eterea, questo brano mostra un lato delicato e profondo di Jin, perfetto per accompagnare la tensione e la malinconia di questo dramma. Yours, Jin. Yours. Hostel Drama Girisan. Era l'anno 2021. Dopo arriva, come sappiamo, l'anno 2022. Che cosa accade nel 2022 per Jane? C'è anche la partenza per il militare, però arriva The Astronaut, scritta con Chris Martin dei Coldplay, è il suo primo singolo solista ufficiale, dolce, simbolica e piena d'amore. The Astronaut è un regalo ai fan prima del suo arruolamento militare. Tra l'altro ricordiamo anche che i Coldplay hanno suonato questo brano dal vivo al concerto e Gene era ospite. È stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera e anche di tutti quanti, insomma, coloro che amano Gene. Io direi di andare ad ascoltare The Astronaut, scritta dai Coldplay, da Chris Martin. Gene. History 어느 우주가 되죠 우리의 이야기 목적지 없이 흘러가는 저 소행성처럼 나도 그저 또 내려가고 있었어 어둠 속에 젖은 나의 모든 dream 새롭게 시작될 story When I meet you, there is no one else. I get heaven to myself. When I meet you, there is no one else. La radio alternativa esiste. MG Radio, The Alternative Radio. Questo è Dynamite, K-Pop and More, su MG Radio. E abbiamo ascoltato The Astronaut, brano scritto da Chris Martin per Gene. Questo è stato, insomma, il brano, il primo brano ufficiale per quanto riguarda la discografia di Gene. È stato lanciato prima che lui partisse al militare. Lui si è arruolato il 13 dicembre 2022 ed è tornato ufficialmente il 12 giugno 2024. Che cosa è successo nel 2024 a Gene? Beh, sono successe tantissime cose. Ha annunciato l'album da solista Happy, poi pubblicato il 15 novembre 2024, ed è diventato anche un'icona globale di stile, perché nel 2024 Gene è stato nominato Global Brand Ambassador di Gucci, uno dei brand di lussi più iconici al mondo. E mano a mano andremo anche a leggere dei punti chiavi sul suo legame con il marchio. Intanto io direi di partire subito col primo brano tratto dall'album Happy. Ricordiamo che Happy è un album mix di generi con forti influenze rock e 6 tracce piene di energia, ironia e sincerità. Il primo brano che andiamo ad ascoltare è stato coprodotto con Gary Barlow dei Take That, che è un invito ad abbracciare l'imprevedibilità della vita. Gina ha anche detto che voleva qualcosa da cantare a squarciagola in macchina, e noi andiamo a cantare insieme a lui questo Running Wild. Gene, tratto dall'album Happy. Running Wild, Gene, tratto dal suo album Happy. Andiamo a salutare Silvia. Buongiorno Elke, buongiorno Mark, caro direttore, perdonate ma sono arrivata in ritardo, cercavo il biglietto per The Rose, un abbraccio. Ma poi alla fine l'hai comprato il biglietto per The Rose, e per quale insomma paese? Facci sapere, perché sappiamo che l'Italia non è rientrata nel loro tour, chissà. Cercheremo, speriamo, in una prossima data. Speriamo. Intanto abbiamo parlato di questa collaborazione di Gene, nominato Global Brand Ambassador di Gucci. Scopriamo perché è stato scelto Gene. Gene è da sempre apprezzato per il suo stile sofisticato, e Gucci ha trovato in lui un volto perfetto per rappresentare la sua visione di moda, che fonde classicità e innovazione. E adesso andiamo ad ascoltare un altro brano che si chiama I'll Be There, che è un messaggio diretto agli ARMY: sarò sempre con voi. E tra l'altro ci sono le chitarre elettriche e il ritmo energico rendono il brano uno dei più potenti dell'album. I'll Be There. Oddio, il mio regista che mi apre il microfono così. Ma io sapevo che tu cantavi. Come si fanno a cantare questo brano di Gin? Splendido. E continuiamo a parlare del perché Gucci ha scelto Gin come brand ambassador. Ogni volta che Gin appare in eventi pubblici o shooting firmati Gucci, riesce a dare una nota personale agli outfit, mostrando versatilità tra abiti eleganti, streetwear di lusso e capi genderless. E adesso cosa abbiamo? Abbiamo un brano, sempre tratto dall'album Happy. Vediamo, è in collaborazione con Taka e Tour dei One Ok Rock. Ci sono atmosfere drammatiche, un amore non dichiarato e la voce di Gin che esplode nel ritornello. Tra l'altro Gin ha detto che era nervosissimo a cantare accanto a Taka, ma che l'esperienza è stata una delle più belle della sua carriera. E noi andiamo ad ascoltare questa collaborazione con Gin e Taka dei One Ok Rock. Falling. To do 날 향한 무의식한 견인 세차게 달린 시간 Bang, questo brano in collaborazione con Taka e Tori dei One Ok Rock. Ci sono altre piccole curiosità per quanto riguarda questo album. Happy è una dichiarazione di rinascita. Jean racconta il ritorno alla vita quotidiana e la voglia di divertirsi, il contatto con i fan e le piccole cose che rendono la vita bella. Ci sono ancora altre curiosità sempre per quanto riguarda questo album. Jean ha registrato una take mentre mangiava caramelle alla prugna, ha detto lui che lo rilassavano. Ma dobbiamo provare, quando siamo un po' stressati, di mangiare delle caramelle alla prugna. Mercoledì, e ha chiamato il suo microfono personale Worldwide Wide Mic ed è stato, insomma, ed è vietato toccarlo. Il suo microfono personale. Poi ha fatto anche una promessa, fece anche una promessa, una zuppa fatta da lui per ogni Army se l'album fosse andato bene. Insomma, è una cosa curiosa. L'album è andato bene, ma la zuppa non si è vista. Continuiamo un attimino, anche perché abbiamo giusto l'ultimo brano di Jean, un brano meraviglioso, strepitoso. Sempre l'impatto sul brand che ha avuto dopo l'annuncio della sua collaborazione con Gucci, l'engagement social dal brand è salito alle stelle, soprattutto in Asia. La fanbase di Jean ha supportato con entusiasmo ogni sua apparizione golfata. Jean è apparso in foto e spot pubblicitari di altissimo livello, spesso ambientati tra arte, natura e architettura, contesti che riflettono sul suo gusto raffinato. Abbiamo un vocale da ascoltare e noi andiamo su ad ascoltare e a salutare la nostra Elena da Sestal Regena. Ecco, vedi, lei ci manda i vocali. Vai. Buongiorno, buongiorno Elke, buongiorno capitano, buon inizio di settimana a tutti quanti. Qui a Sestal Regena le temperature sono scese di colpo di 10 gradi. Anche qua. E le giornate sono belline, col sole, soleggiato, però fa freddo. Anche qui. Buona giornata a tutti, un bacio Elke, ciao. Ciao Elena, ciao. Allora anche qui le temperature sono scese davvero, sì. C'è stato un impatto stamattina, sì, sono uscita e ho detto caspiterina, mi fa freddo e lo so, così dicono che ci saranno delle giornate un po' fredde, sì. Poi forse speriamo arriverà questa primavera, poi aprile è sempre stato un po' così, marzo è un po' pazzerello, aprile è anche sempre un po' incerto, però noi non demordiamo, arriverà comunque il caldo, arriveranno le belle giornate, ma ci siamo noi con la nostra trasmissione, con la musica K-pop a farvi sentire un po' più caldi. Allora abbiamo l'ultimo brano di Jean, Heart of the Window, che è un duetto con Wendy della Red Velvet, è una canzone molto calda, luminosa, con un amore che cresce lentamente, quindi è proprio, viene dichiarata una vera comfort song, e andiamo ad ascoltare questo brano, questo duetto che io amo, Yeah. Heart of the Window, Gene e Wendy del Red Velvet. E facciamo... Chi è? È la nostra voce che si intrufola, la nostra amata voce. Salutiamo Antonio, che è il nostro collaboratore e anche speaker di MG Radio. E quindi facciamo un recap di quello che abbiamo detto su Gene, il Worldwide Anthem dei BTS. Non è solo una delle voci più amate del K-pop, ma anche un ragazzo pieno di sorprese, laureato in arte e recitazione. Prima di salire sul palco sognava di diventare un attore. È stato scoperto così per caso mentre scendeva da un autobus. Molto forte questa cosa, no? Tu scendi dalla macchina, da un autobus, e qualche talent scout è lì pronto a notarti. Sì. E oggi è uno dei volti più noti al mondo. Oltre alla musica, ha una passione per la cucina, persino un mini serie tutta sua, Hit Gene, dove mangia e chiacchiera con i fan. Ma Gene è anche un sinonimo di stile. Nel 2024 è diventato Global Ambassador di Gucci. Con la sua eleganza naturale riesce a dare vita a ogni outfit, passando con disinvoltura da look classici ai capi più eccentrici. Le sue apparizioni per Gucci hanno fatto impazzire il web, e la sua influenza ha portato un'ondata di freschezza e romanticismo al brand. E dietro i riflettori c'è anche un suo cuore grande. Gene è attivamente impegnato nella beneficenza, è membro del Green Noble Club, un gruppo riservato a donatori che hanno versato oltre 100 milioni di won alla Community Chest of Korea. Ha fatto donazioni anonime per anni, sostenendo bambini malati, famiglie in difficoltà e cause ambientali. Gene è la perfetta combinazione di talento, bellezza, stile e generosità, dentro e fuori il palco. E niente, abbiamo voluto dedicare questa puntata a lui. La prossima andremo a vedere un attimino di chi parleremo, sempre membro dei BTS. Ci è arrivato un messaggio. Buongiorno, buon lunedì MG Radio, buon inizio settimana a tutti. Un saluto speciale a Elke, Mark e tutta la redazione a distanza. Baci baci da Roma, da Cinzia Durante. Allora, qualcuno ci parlava che era alla ricerca di biglietti per andare a vedere The Rose. Quindi Silvia, facci sapere se hai trovato questo biglietto. Intanto noi vi facciamo ascoltare un brano di The Rose che si chiama Lifeline. You don't gotta say all the bad things, sipping on your brain like it's codeine. We could run away to a paradise, so pick anywhere you like. Take a second for the city lights. Yeah, we'll just sit here till we get it right. Cause I ain't ever gonna change my mind. I hope you know this. You know, you know, you know, you know. I could be a lifeline. You don't, you don't, you don't, you don't. You don't gotta hurt, baby. If the world is coming down, I won't let you drown. Even if you start to lose your hope, I won't let you go. Mind like it's broken, but there's a better life on the other side, so pick anywhere you like. Take a second for the city lights. Yeah, we'll just wander till we get it right. Cause I ain't ever gonna change my mind. I hope you notice. You know, you know, you know, you know. I could be a lifeline. You don't, you don't, you don't, you don't. Gotta hurt, baby. If the world is coming down, I won't let you drown. Even if you start to lose your hope, I won't let you go. No, you know, you know, you know, you know. I could be a lifeline. I could be a lifeline. Yeah, I could be a lifeline. The Rose, Transparent Hearts, Lifeline. Qualcuno mi sta invitando ad aggiungere un brano nella playlist. Vediamo, possiamo farlo in diretta. Eccolo qua. Cinzia Durante. Allora, Cinzia, noi sai, tu sai che noi accontentiamo sempre tutti. Scusate sempre la mia voce, mi sembra un po' come se qualcuno mi avesse dato una botta in testa e avesse anche colpito le corde vocali, ma è colpa dell'allergia. Intanto io ti faccio ascoltare il tuo amato Jackson Wang con 100 Ways. Turn over the hourglass, the sand is falling down, oh it's too fast for you. Waste your love, just let it last. Cause once it's gone, it's never coming back. It's true, could you love me the same? Tell me what makes you stay, yeah, yeah. There's 100 ways to leave a love, leave a love, leave a lover. 100 ways to leave a love, leave a love, leave a lover. There's 100 ways to leave a love, and I won't wait a minute. I'm the only one that you need. Radio Alternativa esiste. MG Radio, The Alternative Radio. Questo è Dynamite, K-pop and more su MG Radio. E abbiamo ascoltato Jackson Wang, il nostro bel cinesino nato a Hong Kong, per la felicità di tutti coloro che amano questa artista, soprattutto di Cinzia Durante, dai, diciamolo. E ci sono delle news. Il 4 aprile il marchio canadese di caffè Tim Hortons ha annunciato Mark, membro degli NCT, come nuovo ambasciatore in Corea, mentre Hybe America debutta con un nuovo gruppo pop in collaborazione con il creatore dell'universo di YouTube, Channel Alan. E visto che prima abbiamo detto che mercoledì ci sarà l'estrazione al nostro giveaway, il cofanetto dei GOT7 è pronto per essere assegnato al più fortunato, e noi intanto vi facciamo ascoltare un brano Python GOT7. Rainbow roses, fancy eyes, look at the video inside your eyes. 현재 같은 꿈의 sight, feelings drifting like the tide. I left my guard down for a minute. It's your vibe, it's your mind, it's the things I can't describe. I've been running backwards, like a marathon. 모든 순간 속에 네가 있어 제어할 수 없지 날개 그린 감각만이 자꾸 멋대로 No I know I'm an icon Watch me with the lights on Push it got a hold on me like a python I don't wanna lose her Cause she was my future Shot through the chest I was falling for the shooter I don't wanna have to let it go I should move on I know I'm an icon Now I've seen the lights up But she got a hold on me like a python I give you my time when I did it how much All of my feelings up under the rug Touring the world but I'm missing the one Who held it down Music's helping venting now Broken glass I'm bleeding out Overseas I'm sailing out Private planes I got taste I got seven golden rings My accountant called me up Set the money stack to space What a snake with them eyes I won't even try to lie I wish I could let you grow I wish I could say goodbye I've been running backwards like a marathon 모든 순간 속에 네가 있어 제어할 수 없지 날개 그린 감각만이 자꾸 멋대로 No L'opportunità di portarti a casa un super premio. Partecipare è semplice. Ascolta le dirette, segui le istruzioni e buona fortuna. Sintonizzati, partecipa e scopri se sei tu il vincitore. Non perdere questa occasione. Il prossimo premio potrebbe essere il tuo. Resta aggiornato, ascolta Dynamite e seguici sui nostri social. Dynamite, il programma che ti premia. Ebbene, abbiamo mandato lo spot per quanto riguarda il nostro giveaway. L'esazione avverrà mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ci sarà la trasmissione. L'album dei GOT7, Winter Heptagon, sarà vostro, anzi sarà a chi avrà fortuna. Quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Oggi, che giorno è oggi? Oggi è lunedì, sì lo so, ma che lunedì del 7 di aprile. Del 7 di aprile, siamo già arrivati al 7 di aprile, io sono un po' confusa oggi. Sei rimasti dove? No, non lo so, guarda, gennaio. Io rimango lì fermo ogni tanto e non so dove mi trovo, con chi mi trovo e niente. Quando andrai al concerto? Quando andrai al concerto? A novembre? Lo so, credo a luglio. Mamma mia. E che dire, mandiamo l'ultimo brano. Salutiamo tutti coloro che hanno interagito con noi. Salutiamo chi non ha interagito, anche chi ha solo semplicemente ascoltato. Vi ricordiamo l'appuntamento per mercoledì alle 15.30. Noi saremo qui puntuali su MG Radio con la trasmissione Dynamite K-Pop and More. E vi lasciamo con l'ultimo brano dedicato sempre a chi ha ispirato questo programma, ovvero i BTS. Il brano si chiama Miss Right. Ciao a tutti. Ci siamo? Sì, forse. Ah no, un attimino, vedi, questo è il bello della diretta. Sì, il brano insomma era già partito. Era partito, sì, dai, ripristiniamo tutto. Sì. Miss Right, BTS. L'appuntamento è oggi pomeriggio, ragazzi, con Dumbo alle ore 15. Dopo di noi la programmazione da Bari. Ciao a tutti, vi vogliamo bene, nonostante tutto ci sono queste imprevisti. Un bacio. And you sexy about it 뇌 주름 하나같이 섹시하게 태어난 여자 그대 청반바지 와 흰 티에 컨버스 하나 that makes me wanna party all your body 찰랑이는 긴 머리끝 싱그러운 골반이 지저귀는 한편의 숲 같은 너 그 속에서 반짝여 그 비현실적인 몸으로 내 현실을 알아줘 and I want you to be really really with me 때론 나의 어머니 때때론 나의 에너지 yo 난 솔직해 겉으로도 너무 nice 있어 긴장을 놓칠 수 없는 나의 enemy 밖에 많은 정상형들과 달라서 너 같은 여자를 이상형이라 하나 봐 그래 너 생각하면 마음이 자꾸 시려와 내 겨울마다 널 걷고 싶다 너는 내게 최고 너의 하루를 알고 싶어 세상을 혼자 사는 듯한 착각이 드네. 내 곁을 지나는 그대 내 맘에는 너라는 달콤한 바람이 부네. 딱히 꾸미지 않아도 매력이란 향수를 뿌리겠지 아마도. 신은 없다고 믿었었던 나마저도 신을 믿게 만들어 나에게 여신은 바로 너. 바로 너. 네가 어리던 말던 나이가 많던 숨긴 나이가 있던 나는 상관없어. 내가 널 사랑하거든. 너와 함께라면 어디든 꽃이 핀 걸든. 명품백을 주기보단 내 손을 잡아주는 질투심 가시기보단 냄새미를 알아주는 그런 너와 함께 우리의 미래 그려봐. 우리 커플 신발 사이에 어린이 운동화. 너는 내게 최고. 내 맘을 흔든 주인공이 앞에 나 끌리는 것 같아. 자석처럼 지금 바로 너한테. 너의 삶 너의 맘 너의 페이스도 너의 라인 마치 퍼즐 조각 마냥 내 이상형을 맞춘 사람. 너란 날씨 끌리는 바람 꽃 나는 걸 항상 너 향해 난 가는 걸. Yo, I told you many qualifications about my miss right. But why you're my miss right is you are just you. You're my only girl. 최고. 너의 하루를 알고 싶어. 너의 한숨이 되고 싶어. ricambio i saluti e niente, vi do un'anteprima, ci saranno grosse novità prossimamente, rimanete sempre collegati su MG Radio, ciao! Hai perso un episodio? Nessun problema! Ora puoi seguire le repliche comodamente su Telegram, iscriviti al nostro canale e ascolta i tuoi programmi preferiti quando vuoi e dove vuoi. Cerca MG Radio Podcast. MG Radio, sempre con te, ovunque tu vada. Pronti a volare, grandi storie da raccontare, film, colonne, sound che va, Dumbo accende la realtà, scena dopo scena, che emozioni, note che entrano in azione, se il film lo senti dentro al cuore, alza il volume, è uno show di colore, Dumbo, Dumbo, vola su, cinema e musica più su, scene, hit che ritmo ha. Ti piace quello che stai ascoltando? Allora aiutaci a crescere con una sponsorizzazione. Contatta il 375-661-2540. Dalla tua auto alla tua casa, al lavoro o in vacanza. Siamo sempre con te, ovunque tu vada. MG Radio, tutto quello che hai sempre cercato. G-Time, anche a Gradisca di Sonso, in provincia di Gorizia, sono le ore 11:38 minuti. La radio alternativa esiste. MG Radio, The Alternative Radio.